Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Verso la metà di luglio si presentò da Levin lo starosta del villaggio di sua sorella, che si trovava a 20 versti da Pokrovskoe, con il rendiconto sull'andamento degli affari e particolarmente sulla falciatura. Il principale introito della tenuta della sorella si aveva dai prati irrigui. Negli anni precedenti i contadini rilevavano il fieno pagando 20 rubli la desiatina. Quando Levin aveva assunto l'amministrazione della tenuta, esaminata la falciatura, aveva trovato che valeva di più e aveva fissato un prezzo di 25 rubli la desiatina. I contadini non avevano pagato questo prezzo e, come sospettava Levin, avevano allontanato gli altri compratori. Allora Levin si era recato personalmente sul posto e aveva disposto che si raccogliesse il fieno in parte a conto diretto con dei braccianti e in parte pagando i falciatori con una quota del fieno raccolto. I contadini avevano ostacolato con tutti i mezzi questa innovazione, ma le cose erano procedute comunque e nel primo anno dai prati si era ricavato quasi il doppio. Quando l'ultimo fieno fu diviso, Levin, affidando il rimanente controllo all'impiegato dell'amministrazione, si sedette su un mucchio segnato con una canna di citiso, ammirando il prato che formicolava di gente. Levin osservò più attentamente Vanka Parmenov e sua moglie. Non lontano da lui, essi caricavano un mucchio. Ivan Parmenov stava in piedi sul carro, ricevendo, pareggiando e pestando gli enormi cumuli di fieno che, prima a bracciate e poi con la forca, destramente gli passava la sua giovane bella massaia. La giovane donna lavorava con leggerezza, allegria e destrezza. Il fieno sparso sul terreno non veniva subito inforcato. Dapprima lei assestava il mucchio, poi vi conficcava la forca e con un movimento rapido ed elastico vi si appoggiava con tutto il peso del proprio corpo. Quindi, piegando la schiena stretta da una cintura rossa, si raddrizzava e sporgendo in fuori il seno colmo sotto la pettina bianca, con agile mossa afferrava con le mani la forca e gettava in alto sul carro la forcata. Levin spesso ammirava quella vita. Spesso provava un sentimento di invidia per la gente che viveva quella vita, ma quel giorno, per la prima volta, specialmente sotto l'impressione della felicità che aveva scorto nei rapporti fra Ivan Parmenov e la sua giovane moglie, gli venne chiaro il pensiero che dipendeva da lui cambiare la vita così penosa, vuota, artificiale e solitaria che viveva in quella incantevole, pura vita in comune fatta di lavoro. Uscì dal prato e si incamminò per la strada maestra verso il villaggio. Si era levato un venticello e il tempo era diventato grigio, coperto. Venne quel momento di foschia che di solito precede l'alba, la piena vittoria della luce sull'oscurità. Rannicchiato su se stesso per la frescura, Levin camminava rapidamente e guardava in terra. «Cos'è questo? Viene qualcuno?» pensò udendo dei sonagli e sollevò la testa. A una quarantina di passi da lui, sulla grande strada con l'erbetta, sulla quale egli camminava, procedevano verso di lui un tiro a quattro con le valigie sull'imperiale. In un angolo della carrozza sonnecchiava una vecchietta e accanto al finestrino, evidentemente appena svegliata, sedeva una ragazza che teneva con tutte e due le mani i nastri della cuffia bianca. Chiara e pensierosa, tutta pervasa ad una vita interiore, bella e complessa ed estranea a Levin, guardava al di là di lui il rosso fulgore dell'aurora. Nello stesso istante in cui questa visione già scompariva, due occhi pieni di verità lo guardarono. Essa lo riconobbe e una gioia stupita illuminò il suo viso. Non poteva sbagliarsi. Quegli occhi erano unici al mondo. Unico al mondo era l'essere capace di condensare per lui tutta la luce e il senso della vita. Era lei. Era Kitty. Egli capì che stava andando dalla stazione ferroviaria a Ergushovo. Lei non guardò più. Il rumore delle balestre cessò d'essere percettibile. Appena percettibili diventarono i sonagli. Il latrato dei cani indicò che la carrozza aveva attraversato anche il villaggio. Intorno rimasero i campi deserti. Il villaggio più avanti e lui, solitario e a tutto estraneo, che camminava solitario per la grande strada abbandonata. «No!» egli si disse. «Per quanto sia bella questa vita semplice e laboriosa, io non posso tornarci. Io amo lei». Quando di ritorno dalle corse Anna gli aveva rivelato i propri rapporti con Vronsky e subito dopo, coprendosi la faccia con le mani, era scoppiata a piangere, Alexei Alexandrovich, nonostante il rancore che provava verso di lei, nello stesso tempo aveva avvertito un flusso di quel turbamento che sempre gli producevano le lacrime. Sapendo questo, e sapendo che in quel momento la manifestazione dei propri sentimenti sarebbe stata in contrasto con la situazione, egli si era sforzato di contenere dentro di sé ogni manifestazione, ogni segno di vita, e perciò non si era mosso né l'aveva guardata. Da questo appunto proveniva quella strana espressione cadaverica sul suo viso, dalla quale Anna era rimasta così colpita. Arrivati a casa, egli la fece discendere dalla carrozza e con uno sforzo su se stesso la salutò con l'abituale deferenza e disse, senza impegnarsi in nulla, che l'indomani le avrebbe comunicato la propria decisione. Le parole della moglie, che confermavano i suoi peggiori sospetti, avevano prodotto un dolore atroce nel cuore di Alexei Alexandrovich. Questo dolore era reso ancora più forte dallo strano sentimento di compassione fisica per lei, per le sue lacrime. Ma rimasto solo nella carrozza, Alexei Alexandrovich, con propria meraviglia e gioia, sentì una liberazione totale, e da quella compassione, e dai sospetti, e dai tormenti della gelosia che negli ultimi tempi l'avevano torturato. Provava la sensazione di chi si sia fatto estirpare un dente che gli doleva da molto tempo. Dopo il terribile dolore, la sensazione che qualcosa di enorme, grosso come tutta la testa, sia stato estirpato dalla mascella, tutto a un tratto il malato, ancora incredulo della propria felicità, sente che non esiste più quello che per tanto tempo ha avvelenato la sua vita, ha incatenato a sé tutta l'attenzione e che può nuovamente vivere, pensare e interessarsi ad altro che non il suo dente. Siffatta sensazione, provava Alexei Alexandrovich. Il dolore era stato strano e terribile, ma adesso era passato. Egli sentiva di poter di nuovo vivere e non pensare alla moglie soltanto. In gioventù il duello era stato un gran pensiero per Alexei Alexandrovich, proprio perché fisicamente egli era un pavido e lo sapeva bene. Non poteva pensare senza spavento a una pistola puntata contro la propria persona e mai in vita sua aveva usato arma alcuna. «Supponiamo che io lo sfidi a duello», continuò fra sé Alexei Alexandrovich, e vivamente immaginandosi la notte che avrebbe trascorso dopo la sfida e la pistola puntata verso di sé, rabbrividì e capì che mai avrebbe fatto questo. «Supponiamo che io lo sfidi a duello. Supponiamo che mi insegnino», continuò a pensare, «che mi mettano in posizione. Io premerò il grilletto», si disse chiudendo gli occhi, «e risulterà che l'ho ucciso», si disse Alexei Alexandrovich e scosse la testa per scacciare questi stupidi pensieri. Che senso ha l'uccisione di un uomo per decidere il proprio atteggiamento verso una moglie colpevole e un figlio? Dovrò egualmente decidere che cosa fare con lei. Ma la cosa più probabile e che senza dubbio accadrebbe è che io sarei ucciso o ferito. Io, persona innocente, la vittima, ucciso o ferito. Dopo aver riflettuto e aver scartato il duello, Alexei Alexandrovich si rivolse al divorzio. Passando in rassegna nella memoria tutti i casi di divorzio che conosceva, nella più alta società che egli conosceva assai bene erano moltissimi, Alexei Alexandrovich non ne trovò uno solo dove lo scopo del divorzio fosse stato quello che egli si prospettava. In tutti questi casi il marito cedeva o vendeva la moglie infedele e proprio la parte colpevole, che non aveva diritto di sposarsi, contraeva un nuovo rapporto pseudo-legalizzato. Nel proprio caso poi Alexei Alexandrovich vedeva che era impossibile ottenere un divorzio legale in cui, cioè, fosse soltanto ripudiata la moglie colpevole. Vedeva che le complesse condizioni di vita in cui egli si trovava non ammettevano la possibilità di quelle prove volgari che la legge esigeva per riconoscere la colpevolezza della moglie. Vedeva che un minimo di eleganza richiesto da tale vita non ammetteva neppure l'uso di siffatte prove, anche se fosse stato possibile procurarsene, che l'uso di siffatte prove avrebbe fatto scadere più lui che lei nella pubblica opinione. Hush now, don't explain, just say you'll remain. I'm glad you're Riesaminate di nuovo le circostanze del duello, del divorzio, della separazione e di nuovo respintele, Alexei Alexandrovich si convinse che la via d'uscita era una sola: trattenerla presso di sé, nascondendo al mondo l'accaduto e impiegando tutti i mezzi idonei a far cessare la relazione e principalmente, cosa che non confessava a se stesso, a punirla. Devo annunciarle la mia decisione, che avendo riflettuto sulla grave situazione in cui essa ha posto la famiglia, tutte le altre vie d'uscita sarebbero per entrambe le parti peggiore di uno statu quo esteriore e che questo io sono disposto a mantenere sotto la rigorosa condizione che da parte di lei sia eseguita la mia volontà, si metta fine cioè alla relazione con l'amante. Riflettendo agli ulteriori particolari, Alexei Alexandrovich non vedeva nemmeno perché i suoi rapporti verso la moglie non potessero rimanere quasi gli stessi di prima. Senza dubbio egli non sarebbe mai stato in grado di restituirle la propria stima, ma non c'era e non poteva esserci alcuna ragione perché egli sconvolgesse la propria vita e soffrisse per il solo fatto che lei era una moglie cattiva e infedele. Sì, passerà il tempo che tutto accomoda, e si ristabiliranno i rapporti di prima, si disse Alexei Alexandrovich, ossia si ristabiliranno in tal grado che io non sentirò turbamenti nel corso della mia vita. Lei deve essere infelice, ma io non sono colpevole e perciò non posso essere infelice. Nello studio, Alexei Alexandrovich andò su e giù un paio di volte e si fermò davanti all'enorme scrivania, sopra la quale erano già state accese 6 candele da un cameriere entrato prima di lui. Fece scrocchiare le dita e si sedette, disponendosi a scrivere. Appoggiati i gomiti sul tavolo, piegò la testa di lato, rifletté per un minuto e incominciò a scrivere senza più fermarsi neanche per un attimo. Le scriveva senza nominarla, in francese, adoperando il pronome voi, che non ha quel carattere di freddezza che ha invece in russo. Nell'ultima nostra conversazione vi ho detto che vi avrei poi comunicato la mia decisione in merito all'oggetto del noto colloquio. Avendo riflettuto attentamente su tutto, scrivo ora al fine di adempiere tale promessa. La mia decisione è la seguente. Quali che siano le vostre azioni, io non mi ritengo in diritto di spezzare i vincoli con i quali siamo stati legati da un'autorità che viene dall'alto. La famiglia non può essere distrutta da un capriccio, da un arbitrio o anche dal crimine di uno dei coniugi, e la nostra vita deve procedere come prima. Ciò è necessario per me, per voi, per nostro figlio. Sono pienamente convinto che voi vi siate pentita e che vi pentiate di quanto ha dato motivo alla presente lettera, che collaborerete con me per estirpare alla radice la causa del nostro contrasto affinché il passato sia dimenticato. In caso contrario, voi stessa potete prevedere ciò che attende voi e vostro figlio. Di tutto questo spero parlarvi più dettagliatamente incontrandovi di persona. Giacché il periodo della villeggiatura è al termine, vi pregherei di trasferirvi a Pietroburgo il più presto possibile, non più tardi di martedì. Saranno date tutte le disposizioni necessarie per il vostro viaggio. Vi prego di notare che attribuisco una particolare importanza all'adempimento di questa mia richiesta. Alexei Karenin. P.S. Accludo a questa lettera il denaro che potrà essere necessario per le vostre spese. Lesse la lettera e ne rimase contento, in particolare di essersi ricordato di accludere il denaro. Non c'era una sola parola crudele, né un rimprovero, ma non c'era nemmeno indulgenza. Soprattutto c'era un ponte d'oro per il ritorno. Quella stessa sera Anna si trovò con Vronsky, ma non gli parlò di ciò che era accaduto fra lei e il marito, sebbene occorresse dirglielo per definire la situazione. Quando si svegliò la mattina dopo, la prima cosa che le venne in mente furono le parole dette al marito. Esse le sembrarono così orribili che non riusciva adesso a capire come si fosse potuta decidere a pronunciare quelle strane, volgari parole, né riusciva adesso a immaginare che cosa ne sarebbe derivato. Ma le parole erano state dette e Alexei Alexandrovich era partito senza aver detto nulla. Io ho visto Vronsky e non gliel'ho detto. Ancora nel momento in cui se ne andava, volevo farlo tornare indietro e dirglielo, ma ho cambiato idea, perché era strano che non gliel'avessi detto nel primo momento. Perché volevo dirglielo e non gliel'ho detto? E in risposta a questa domanda, una bruciante vampa di vergogna si diffuse sul suo viso. Capì ciò che l'aveva trattenuta, capì che si era vergognata. A volte non sapeva di che cosa avesse paura, che cosa desiderasse. se avesse paura e se desiderasse ciò che era stato o ciò che sarebbe stato. E che cosa precisamente desiderasse, non lo sapeva. «Oh, ma che cosa sto facendo?» si disse, sentendo ad un tratto un dolore ai due lati della testa. Quando rientrò in sé, vide che stringeva con tutte e due le mani i capelli alle tempie e li tirava. Balzò in piedi e cominciò a camminare. «Il caffè è pronto e Mademoiselle con Serioja aspetta», disse Agnuska, ritornando e ritrovando Anna nella stessa posizione. «Serioja? Che cosa fa Serioja?» domandò animandosi Anna. Per la prima volta in tutta la mattina si era ricordata dell'esistenza del figlio. «Ha fatto qualcosa di male, a quel che sembra», rispose Agnuska sorridendo. «Che cosa ha fatto di male?» «C'erano delle pesche nella stanza d'angolo e pare che ne abbia mangiata una di nascosto». Il ricordo del figlio trasse d'improvviso Anna dalla sensazione in cui si trovava di non avere via d'uscita. Si ricordò di quella parte, certo sincera, benché anche molto esagerata, che si era assunta negli ultimi anni di madre che vive per il figlio, e sentì con gioia che disponeva di un dominio indipendente dalla sua posizione verso il marito e verso Vronsky. Questo dominio era il figlio. Aveva bisogno di calmarsi e di uscire da quella situazione tormentosa. Non bisogna pensare. Bisogna prepararsi. Per dove? Quando? Chi prendere con me? Sì, a Mosca, con il treno della sera. Agnuska è seriosa e le cose più indispensabili. Ma prima bisogna scrivere a tutti e due, disse a se stessa. Entrò frettolosamente in casa, nel suo studio, si sedette al tavolo e scrisse al marito. «Dopo ciò che è successo, non posso più restare nella vostra casa. Parto e prendo con me il figlio. Io non conosco le leggi e perciò non so con quale dei genitori debba stare il figlio, ma lo prendo con me perché senza di lui non posso vivere. Siate magnanimo, lasciatemelo». Sinora aveva scritto rapidamente e con naturalezza, ma l'appello alla sua magnanimità, che lei non gli riconosceva, e la necessità di concludere la lettera con qualcosa di commovente la fermarono. «Parlare della mia colpa e del mio pentimento non posso perché...» Di nuovo si fermò, non trovando un nesso nei propri pensieri. «No, non c'è bisogno di niente». E strappata la lettera, la riscrisse escludendo l'accenno alla magnanimità e la sigillò. Un'altra lettera si doveva scrivere a Vronsky. «L'ho detto a mio marito», scrisse, e rimase a lungo seduta, non essendo in grado di scrivere oltre. Era così volgare, così poco femminile. «Non c'è bisogno di niente», si disse. E chiusa la cartella, andò di sopra. Annunciò alla governante e alle persone di servizio che quel giorno partiva per Mosca e si accinse subito a fare i bagagli. Thank you.